compongono parole e danno voce. Trattasi di inchiostro e filigrana inciso in pietra sui tessuti con colori naturali e sulle foglie. Mille leggende, più mio pegno viceversa. Almeno tre domande per ogni risposta. Aggiungi suoni per combinazioni ma contano i fatti. Dividi introiti con chi anticipato segnano il tempo. Lo scadire regolare, nel mio quadro è regolabile. Amo sottrarre, si sente. Moltiplica per rime e marchi sulla pelle. Fuoco è per sempre indelebile. E una collana d'oro a maglie fitte che non togli mai. Stringe il collo ma non taglia, stringi nelle mani. Un fazzoletto con le tue iniziali che chiamerò spesso. Sono preziose, raffinate, grezzo favole. Su mio ormai non posso esserne esente. Ognuna è un'emozione, un fatto, una persona, ogni parola. E tutti insieme una cosa sola. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Buon gusto e si gira. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Buon gusto e si tira. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Buon gusto mira. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Perso nella strada della vita, di colo cieco, corpo disperso nella giungla di metafore che si aggira per confonderci, per distrarci, per lasciarci senza fiato. Un bambino fisso e solo sempre ipnotizzato. Sogna di toccarlo, sogna di raggiungerlo, avvolto dal calore emanato dai suoi raggi. Vorrei realizzare i sogni fatti da bambino, quando ero piccolino. Sognavo cose impossibili ma realizzabili. Con la fantasia scoprivo mondi strani inesistenti. Ma gli ora ciò che voglio, gli amici, la famiglia, tutto quello che prima non aveva. Adesso vedi il mondo in un modo diverso. Posso spaccare, io so spaccare, tu stai a guardare. Se non ti piace, prepara la valigia e sai che fare. Per ora tu puoi solo ascoltare. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Buon gusto e si gira. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Buon gusto e si tira. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Buon gusto mira. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Colti come fiori da improvviso, strappi al cuore in cattività, cresciuti in serra, tepore e terra. Bagnati da una pioggia impercettibile, quasi invisibile, solchi. Speranze dolci sfumate nel tramonto di una sera fatta di fede e spirito. Anima persa nella luce della notte, confuso e distratto, preso di striscio dai pensieri di un bambino. Sorrisi stretti nel volersi, sfuggenti labbra ormai volati. Immagini sfocate nel tempo, il sole scalda, il sole brucia. I raggi che ti accecano lasciano segni nella vita, in vita. Vittima di un filo senza inizio né continuo, tu sei il velcro, io lo strappo. Sono tre giorni che non mangio, si sa, ci stimano, lo si fa per gioco. A poco si arriverà alla fine dell'incontro. Io contro te, tu contro me. Vediamo chi per primo riuscirà a non perdere. Impugnature per coltelli da cucina e manici neri. Hai rotto un altro elastico, più un fazzoletto bagnato fradicio. Impregnato di sudore di una vita di fatiche. Strada in salita, ostaggio di uno scherzo che è durato troppo a lungo. Sono stagno e piombo diventato peltro povero. Luccico da solo, non mi piego ma mi spricciolo. Piccole molecole di un sogno ormai impossibile, irrealizzabile. Piante in balia del sole ondeggiano calme, la plastica assorbe ma il granito riflette. Come la luna piena, illumina giorno, un altro turno di follia. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Buon gusto e si gira. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Buon gusto e si tira. Bette Big Business, Nuoro City 2000. Buon gusto mira. Bette Big Business, Nuoro City 2000.